Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ecco, siccome noi abbiamo vissuto uguale esperienza nel momento in cui abbiamo votato la legge elettorale, che adesso possa accadere che un jihadista della maggioranza venga e faccia esplodere un emendamento, ripeto, forse non sono stato chiaro, che un jihadista della maggioranza il jihadismo è qualcosa che lei conosce bene. Ha ragione Presidente, è improprio, perché i jihadisti almeno hanno il coraggio di farsi saltare, qui invece fanno saltare gli emendamenti. Senatore Di Maggio, avete sentito che polemica terroristica, si potrebbe dire, stando nei termini usati al Senato, sulla battaglia vera e propria, è il caso di dire, sulla riforma appunto di Palazzo Madama. Questo era Di Maggio del movimento fittiano dei conservatori riformisti. E insomma, questo ci dà il senso di quanto sia tesa la situazione nell'iter della riforma del Senato. Ne parleremo naturalmente questa sera Effetto Notte, ma a proposito di jihadisti ci concentreremo anche molto su quello che sta succedendo in Siria, perché sono cominciati i raid russi, come Putin aveva più o meno annunciato, e però c'è tutto un botta e risposta con gli Stati Uniti. Non è vero che state colpendo l'ISIS, sì, abbiamo colpito le postazioni ISIS e altri gruppi terroristici, e poi non si che l'opposizione anche siriana dice non è vero, stanno colpendo i civili. Insomma, cercheremo di capire anche chi sta bombardando chi, che non è chiaro questo cielo così affollato della Siria purtroppo. E poi ci occuperemo proprio di occuparsi anche di occupazione. I dati sull'occupazione, pare che la disoccupazione sia in calo, Renzi oggi ne ha parlato diffusamente, affronteremo anche questo argomento, perché poi in realtà quella giovanile invece è anche in leggera crescita. E poi i risultati ovviamente della partita di Champions della Juventus, che è iniziata da poco. Vedremo cosa combinerà di buono in casa a Torino contro il Siviglia. Quindi non perdete un solo minuto di Effetto Notte. Ho visto ancora moltissimi messaggi che sono continuati sulla polemica di ieri sul ponte sullo stretto di Messina. Sapete che è stata una mozione del nuovo centrodestra che la maggioranza ha votato. Questa riconsiderazione, di prendere in considerazione la riconsiderazione del ponte sullo stretto, non come ponte a tutti gli effetti, ma come un'infrastruttura ferroviaria. Continuo a vedere ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio giorno e notte, poi scrivere opinioni di qualsiasi argomento, così come le vostre opinioni potete inviarle come SMS al 349 238 6666. Quindi come sempre a vostra disposizione pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli SMS al 349 238 6666. Andiamo a vedere intanto che giornata è stata. La riforma del Senato, scontro sulla modifica canguro che farebbe decadere gli altri emendamenti. Le opposizioni parlano di attacco alla democrazia. I dati Istat sul mercato del lavoro, cala la disoccupazione, ma non quella giovanile. Renzi dice abbiamo portato l'Italia fuori dalle sabbie mobili. Siria parte l'operazione russa con raid aerei, ma gli Stati Uniti chiedono di fermare i bombardamenti perché non colpiscono le postazioni ISIS. L'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente palestinese Abu Mazen dice basta accordi, proteggeteci da Israele, ma il primo ministro israeliano Netanyahu replica il suo è un discorso ingannevole, Israele pronto a negoziati diretti. Ebola, un caso sospetto a San Martino di Genova, si tratta di un ingegnere di 25 anni originario della Sierra Leone. Ennesimo femminicidio ad Albano Laziale, vicino Roma, un carabiniere aspetta l'ex moglie davanti alla scuola dove insegna e la uccide e poi si suicida. Sport questa sera in Champions, tocca la Juventus a Torino contro il Siviglia e per la pallavolo le azzurre si sono qualificate ai quarti di finale agli europei, l'Italia ha battuto 3-0 la Croazia. Partiamo quindi dalla politica italiana, dalla battaglia entrata nel vivo sulla riforma del Senato. Al via c'è stato il primo voto in aula e tempi forse più brevi del previsto per l'utilizzo di uno strumento particolare che si chiama canguro, col quale salterebbero parecchi emendamenti. Ma ci collegheremo tra poco con Roma per capire cosa significa e a che punto sta l'iter della riforma. Intanto il Presidente del Consiglio Renzi oggi al Question Time ha toccato diversi temi: sanità, tasse, crescita, immigrazione. Richiesto più volte dalle opposizioni, il premier Matteo Renzi interviene al question time della Camera, parla di sanità ma anche di tasse con la legge di stabilità che si avvicina e di lavoro. Non è vero che ci sono tagli, precisa il Presidente del Consiglio. Nel 2002 il Fondo Sanitario Nazionale era di 75 miliardi, quest'anno sarà di 110 miliardi, il prossimo di 111. Che abbiamo dei dati diversi su ciò che è avvenuto sulla sanità in questi anni. Poi possiamo discutere di come impiegare questi denari e possiamo fare sia le consultazioni web che ascoltare alcuni dei messaggi che arrivano dai medici. L'Italia è salva, dice Renzi, riguardo all'economia. Nel primo anno e mezzo il governo ha avuto come priorità l'industria manufatturiera e il lavoro. Questa prima fase, quella di portare l'Italia fuori dalle sabbie mobili, è una fase che possiamo dire missione compiuta. Il passaggio successivo è quello di riuscire a definire e declinare i nuovi paradigmi dell'investimento manifatturiero in Italia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quindi avete sentito, Renzi dice abbiamo portato l'Italia fuori dalle sabbie mobili. Secondo voi è così, l'Italia effettivamente fuori pericolo, fuori dalle sabbie mobili? 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, potete anche commentare naturalmente poi l'ampia pagina che seguirà poi sulla Siria. Renzi comunque si è detto soddisfatto anche del dato sulla disoccupazione diffuso oggi dall'Istat, più 69.000 occupati ad agosto. Tasto dolente resta, come vi dicevo, la disoccupazione giovanile, di questo ci occuperemo più tardi. Invece torniamo sulla politica in senso stretto per i funerali oggi di Pietro Ingrao in piazza Montecitorio. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Lo accolgono con i pugni chiusi e le bandiere rosse. Bella ciao urlata al vento, inno di una vita da comunista eretico che voleva la luna e coltivava il dubbio. Ciao compagno Pietro, scrivono i militanti della sinistra radicale su uno striscione davanti a Montecitorio. Anziani e giovani, lavoratori e uomini di partito. L'ultimo saluto a Pietro Ingrao di fronte alla Camera dei Deputati, che ha presieduto dal 76 al 79, unisce il suo popolo e le istituzioni. 100 anni di battaglie e l'impegno per i più deboli, ricordato da Don Ciotti. Era innamorato dei poveri, degli ultimi. Pietro ha servito la politica invece di servirsene. Ha creduto nella politica come strumento di giustizia. Commossa la tribuna delle autorità, da Mattarella a Napolitano, da Renzi alla Boldrini. Un uomo colto, un uomo onesto, un uomo animato da una forte passione ideale. La musica di Ambrogio Sparagna asciuga le lacrime delle figlie e dei nipoti. La lettura di alcuni passaggi dei suoi libri rende immortale il suo pensiero. E un funerale può trasformarsi in una festa, come dice il regista Ettore Scola. Siamo allegri per questa bella giornata di festa. È la festa di Pietro. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ieri invece si è molto discusso della mozione del nuovo centrodestra, la riconsiderazione del ponte di Messina, no? Come vi dicevo, come infrastruttura ferroviaria, una mozione che è stata votata dalla Camera. Sentiamo cosa ha detto oggi sul progetto il ministro dei trasporti Delrio, intervistato da Sebastiano Barisoni. Io ho detto che abbiamo adesso altre priorità, l'ordine del giorno che è stato approvato con il parere favorevole del governo recita testualmente così: valuteremo l'opportunità di riesaminare, quindi dobbiamo valutare se è opportuno o no riesaminare, non mi muoverei da questa definizione. E continuano su questo tema, vedo i vostri messaggi, è un tema che ha colpito molto, poi magari se c'è tempo ne leggerò ancora qualcuno sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso parliamo invece, sposiamoci all'estero, in Siria i cacciarussi già in azione nel paese, ci sono stati i primi bombardamenti a nord di Homs, ma scoppia questo contrasto con gli Stati Uniti, che era già nell'area dall'Assemblea Generale dell'ONU, che sostengono gli Stati Uniti che la Russia in realtà non sta colpendo le postazioni dell'ISIS. E c'è anche l'opposizione, vedevo adesso un'agenzia di poco fa, l'opposizione siriana, che accusa la Russia di che sta colpendo i civili, addirittura i civili. Di questo poi ne parleremo diffusamente. Sempre parlando dell'Assemblea Generale dell'ONU, proseguono i discorsi dei capi di Stato e di Governo e si assiste a uno scontro, questa volta più o meno diretto e indiretto, tra Abu Mazen, il presidente palestinese, e il primo ministro Netanyahu israeliano. Il presidente palestinese Abu Mazen dice: basta accordi, in questo discorso proteggiamo da Israele, lancia questo appello, ma il primo ministro israeliano Netanyahu replica: il suo è un discorso ingannevole perché Israele è pronto a negoziati diretti. E siamo al caso Volkswagen, per Berlino l'azienda non sarà più la stessa, in Italia Confindustria è preoccupata per i fornitori. Il Dieselgate non penalizzerà l'economia tedesca, ne è convinto Wolfgang Schäuble. Alla fine Volkswagen non sarà più quello che era, ma noi usciremo più forti anche da questa crisi, assicura il ministro delle finanze tedesco. Travolto dallo scandalo sulle manipolazioni dei dati per i test antismog, il gruppo di Wolfsburg si appresta a richiamare 11 milioni di auto, un'operazione da oltre 6 miliardi di dollari, ma al conto potrebbero sommarsi anche le class action annunciate in vari paesi e la possibile multa da parte delle autorità statunitensi. Dall'Italia il presidente di Confindustria Squinzi si dice preoccupato per i fornitori italiani di Volkswagen, mentre il ministro dei trasporti Delrio, ospite di Focus Economia, aggiunge: questa vicenda dimostra che dobbiamo accelerare l'entrata in vigore delle nuove metodologie di verifica delle emissioni, cioè di mettere in campo da subito, fin dal 2016, le nuove metodologie che già avevamo approvato. Significa che dobbiamo renderli più credibili questi test in generale, al di là della truffa Volkswagen, che è inaccettabile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla cronaca con l'ennesimo femminicidio. Naturalmente teniamo più o meno il conto che effettuato, non è facile, perché adesso sono almeno una novantina, quindi pensate, 10 donne ogni mese uccise dai loro fidanzati, ex fidanzati, mariti, ex mariti. Ad Albano Laziale, questa volta vicino Roma, un carabiniere oggi ha aspettato l'ex moglie davanti alla scuola dove lei insegnava, l'ha uccisa e poi si è suicidato. La vittima aveva 47 anni. Parliamo anche di questo sospetto caso di Ebola. All'ospedale San Martino di Genova, un ingegnere di 25 anni, originario della Sierra Leone, è stato ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive dopo aver lamentato uno stato febbrile. L'uomo è arrivato da solo in ospedale. A proposito di cose più leggere, l'influenza, le previsioni sono queste, che salvo sorprese non dovrebbe quest'anno colpire troppo duro, ma metterà comunque a letto un numero variabile tra i 4 e 5 milioni di italiani. Quelli a subire possibili conseguenze più gravi potrebbero essere le persone oltre i 65 anni, ed è per questo che si consiglia la vaccinazione. E poi, a proposito di salute e scienza, questa notizia va sempre presa con le pinze, queste novità. Sono state aperte delle nuove prospettive nella lotta contro l'AIDS in una ricerca condotta da Massimo Pizzato, quindi una ricerca italiana, dal suo gruppo di ricerca del Centro per la Biologia Integrata dell'Università di Trento, pubblicata oggi sulla rivista Nature. È stata scoperta l'esistenza nelle cellule di un potentissimo inibitore naturale dell'infezione virale dell'HIV, la proteina cellulare Serinc5, in grado di neutralizzare l'HIV e altri virus simili. Vediamo se avrà, come si spera, degli sviluppi. E poi per il meteo, allerta per temporali nelle prossime ore, soprattutto in Sardegna. Dalle 12 di oggi e fino alle 12 di venerdì è allerta meteo con codice rosso in tutta la Sardegna a causa del possibile arrivo di un ciclone. Secondo le previsioni dell'ufficio meteo dell'aeronautica militare di Decimo Mannu, dal tardo pomeriggio e per tutta la nottata pioverà, in particolare lungo la costa orientale, con cumuli d'acqua che potrebbero raggiungere i 90-100 mm, l'equivalente della pioggia che cade in due mesi. Ad annunciare il codice rosso, che ancora non significa emergenza, è stata questa mattina la Protezione Civile, specificando che fenomeni importanti e potenzialmente molto pericolosi potrebbero iniziare a intensificarsi. Già nel pomeriggio di oggi, in alcuni centri del Nuorese e della Baronia, sono state fatte evacuare case a rischio alluvione e allontanate decine di famiglie. Giuseppe Murru, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo adesso allo sport, prima di tutto con il calcio. Dario Ricci è a Torino, ci aggiorna. Come sta andando la Juventus in Champions, Dario? Buonasera Roberta, siamo al 30° di gioco allo Juventus Stadium, 0-0 tra Juventus e Siviglia, quelli di Peric che ora provano a farsi largo sulla sinistra con tre Molinazzi, il cross al centro che scorre lungo tutto l'arco offensivo juventino apparentemente senza problemi. Una buona Juve, decisamente migliore della versione che stiamo vedendo in campionato finora e che ha avuto almeno due limpide occasioni da gol. La prima dopo 30 secondi con Pogba che ha svirgolato malamente di destro, un ottimo assist di Morata, e poi al 17° una splendida combinazione tra Quadrato, Chedira, rientrante Chedira, il tedesco, e Dybala, il sinistro a giro di quest'ultimo, uscito veramente di pochi centimetri sul palo più lontano della porta difesa da Rico. siamo al 31esimo di gioco, Roberta, con lo Juventus Stadium, ancora 0-0 tra Juventus e Siviglia. Grazie Dorici, poi ci sentiamo dopo, ci ricolleghiamo con Torino. Invece per la pallavolo, l'Ital Volley femminile si qualifica per i quarti di finale agli europei all'Arena Atoi di Rotterdam. Le azzurre del CT Bonita hanno superato negli ottavi la Croazia con il punteggio di 3-0. Lo bianco e compagni affronteranno domani, giovedì 1 ottobre, la Russia per accedere alle semifinali. Queste sono le notizie, la giornata nel sud. Adesso cominceremo a entrare piano piano, come sempre, nel cuore degli argomenti con gli ospiti. Volevo leggere qualcuno dei vostri messaggi. Continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte quelli sul ponte di Messina, questa mozione del nuovo centrodestra che è passata. E Corrado dice: penso che pochi giorni fa mi ha fatto leggere una notizia: in Cina è appena partita la costruzione di un ponticello lungo 40 km che sarà ultimato entro il 2017. A proposito di tempi, dice Marilena: la Sicilia è la regione con la percentuale più alta di ponti, pilastri falliti. Ricordo quel viadotto durato da Natale a Capodanno, poco più, poco meno, basterebbe questo per decidere di fare altro con quei fondi. Poi Alberto dice: Roberta, da siciliano posso dirti che per noi il ponte non è un'opera né desiderata e nemmeno necessaria, visti i brevi tempi del traghettamento in auto, sono 30-35 minuti, non di più. È anche vero che il traghettamento da Messina in treno richiede circa 3 ore, quindi il ponte servirebbe molto, ma bisognerebbe prima, spendendo molto meno, raddoppiare i binari lungo le linee che da Siracusa e da Trapani portano a Messina. Poi invece sulle questioni economiche dell'Italia fuori dalle sabbie mobili, come ha detto Renzi, Paolo da Milano: l'Italia è fuori dalle sabbie mobili nel senso che hanno trovato il cadavere, scrive al 349-238-6666. Ci sentiamo dopo la viabilità. Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Guglielmo da Taranto scrive al 349-238-6666: così come Berlusconi è stato vittima della crisi europea, così Renzi si dà merito dell'agognata ripresa economica. Di questo parleremo dopo. Potete continuare a mandare i vostri messaggi e le vostre opinioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia gli sms al 349-238-6666. I dati che vanta Renzi, scrive qualcun altro, sono irrilevanti. L'Italia rimane in grave crisi. Adesso però vi ricordo le notizie più importanti e poi cominciamo a capire, per esempio, che cos'è questo canguro che tanto ha fatto discutere oggi. I caccia di Putin bombardano in Siria, scontro con Washington. La Russia dice una risposta alla richiesta di Assad, ma gli Stati Uniti dicono Mosca deve fermare l'aggressione. Renzi dice oggi nel Question Time, ha detto, l'Italia è fuori dalle sabbie mobili, è una svolta, e parla anche della sanità, della disoccupazione che scende sotto il 12%. Riforma del Senato, scontro sull'emendamento canguro di cui parleremo tra pochissimo. E poi a Ventimiglia sgomberati i migranti, stavano lì da circa un centinaio di giorni. Intanto c'è stato un nuovo naufragio nell'isola greca di Lesbo. Bella ciao e bandiere rosse oggi per l'ultimo saluto a Ingra, oggi c'è stato il suo funerale. E poi sempre l'Assemblea Nazionale Generale dell'ONU, Abu Mazen, il primo ministro, il presidente palestinese, ha detto basta accordi, ha chiesto proteggeteci da Israele, mentre il primo ministro israeliano Netanyahu dice un discorso ingannevole che istiga al disastro. E poi l'influenza che metterà a letto 5 milioni di italiani questo inverno, queste sono le previsioni. Prima di allargare i nostri orizzonti, di andare verso la Siria, Putin, Stati Uniti, eccetera, parliamo della politica nostrana con Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Vincenzo, senti, man mano ci aggiorniamo su questo iter accidentato della riforma del Senato. Oggi si è cominciata a entrare nel vivo la battaglia, si è cominciato a votare. Che cos'è questo emendamento canguro che tanto ha fatto discutere? Io farei risentire, non so se c'è Di Maggio, che abbiamo fatto sentire all'inizio, dei conservatori e riformisti, che ha parlato addirittura di jihadisti. Ecco, siccome noi abbiamo vissuto uguale esperienza nel momento in cui abbiamo votato la legge elettorale, che adesso possa accadere che un jihadista della maggioranza venga e faccia esplodere un emendamento, ripeto, forse non sono stato chiaro, che un jihadista della maggioranza il jihadismo è qualcosa che lei conosce bene. Ha ragione Presidente, è improprio, perché i jihadisti almeno hanno il coraggio di farsi saltare, qui invece fanno saltare gli emendamenti. Senatore Di Maggio. sentito Vincenzo, quindi spiegaci perché sei arrivato addirittura a questi livelli di scontro, livelli meno, dialogico, diciamo. Di scontro alto, perché Roberta, ricordiamo ai nostri ascoltatori che in questo momento i contenuti della riforma forse interessano a pochi anche all'interno dello stesso Senato, quindi le schermaglie tra maggioranza ed opposizione si basano soprattutto su come da parte dell'opposizione bloccare i lavori parlamentari e da parte del governo e della maggioranza invece come rispettare la data del 13 ottobre come via libera a questo passaggio parlamentare. Ora quindi cosa era successo? Non ammessi i famosi 80 milioni circa di emendamenti da parte della Lega di Calderoli, oggi il nodo da superare da parte della maggioranza erano 19 voti segreti su altrettanti emendamenti all'articolo 1 della riforma del Senato. E sappiamo, Roberta, quanti problemi si possono mascherare e nascondere dietro un voto segreto nell'aula parlamentare. Il governo e la maggioranza hanno voluto evitare possibili tranelli e quindi hanno presentato all'ultimo momento il cosiddetto emendamento Kocianchik, che prende il nome da un senatore del PD, un cosiddetto mini canguro che non è Kocianchik il canguro, no, è il tipo di emendamento Kocianchik è il cognome del senatore. Sì. Il canguro è di solito viene chiamato così negli usi parlamentari, quell'emendamento che fa decadere tutti gli altri emendamenti che lo precedono. In questo caso anche questo emendamento del Partito Democratico, qualora approvato e l'approvazione è stata rimandata a domani, verrebbe a far decadere tutte le altre richieste di modifica su cui è stata ammessa la votazione segreta. Quindi per farla breve, non ci sono stati più questi voti segreti, il governo non li ha dovuti quindi subire e al momento possiamo dire che c'è un 1-0 per la maggioranza nei confronti dell'opposizione. A proposito di partite, grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Grazie. Ciao. Ora invece passiamo a ben altre battaglie con il nostro Gigi Donelli. Ciao Gigi. Ciao Roberta, buonasera, un saluto agli ascoltatori. Perché è partita l'operazione russa in anti-ISIS in Siria, cosa che il presidente Putin aveva già fatto presagire un po' di settimane fa quando aveva cominciato a rafforzare la presenza russa in Siria. Poi si è ancora più esplicitata questa cosa in questi due giorni all'Assemblea Generale dell'ONU, quando Putin ha fatto capire con forza qual è il suo punto di vista per superare la crisi siriana, dicendo insomma che bisogna sostenere il presidente siriano Assad contro i terroristi dell'ISIS. Ha trovato però dall'altra parte il presidente Obama, americano Obama, che è di tutt'altro punto di vista, perché dice Assad è un tiranno, noi non lo sosterremo, continueremo la battaglia contro l'ISIS, ma non sostenendo un tiranno come Assad, che ha sparso tanto sangue nel suo paese. Tra l'altro la Russia si appresta a presentare al Consiglio di Sicurezza una bozza di risoluzione per costituire una coalizione anti-ISIS, così come aveva proposto l'Assemblea Generale dell'ONU. Però cosa è successo? Che oggi sono partiti effettivamente i primi bombardamenti russi sulla Siria e dicono di aver colpito diverse postazioni dell'ISIS. Dall'altra però ci sono gli Stati Uniti che accusano la Russia di non colpire invece l'ISIS e gli stessi oppositori siriani che accusano la Russia di colpire i civili. Insomma è una gran confusione, un cielo bisogna dire veramente trafficato di cacciabombardieri, perché poi c'è anche la coalizione occidentale con gli Stati Uniti, con vari stati europei, c'è anche l'Australia, la base della Turchia, ma la Turchia ancora non è intervenuta. Allora Gidone, in tutta questa confusione, prima di capire chi bombarda chi, che questo è già importante, e non siamo in grado di dare una risposta perché chiaramente il fatto che ci siano stati 8 punti di intervento, e su questo c'è conferma da entrambe le parti, non ci dice nel livello di dettaglio se sotto quelle bombe c'erano civili o terroristi. Visto che prima si parlava di jihadisti, l'unica cosa che mette in comune tutto è che tutti sono contro i jihadisti, quindi che siano ISIS o al-Nusra, quello è l'unico punto di accordo. Come hai detto giustamente, poi l'interrogativo è: ma lo state colpendo davvero? Oppure state colpendo gli anti-Assad che cercavano 4 anni fa di cambiare il regime? Già, questa è una bella domanda. Infatti questo ci porta, questo interrogativo, Gigi Donelli, a ricostruire, se ci ricostruisci brevemente, da dove è partita questa crisi siriana? Perché spesso è normale, si può perdere un po' il filo conduttore di questa vicenda, no? Da dove è partita? È uno scherzo questa domanda? No, è proprio... No, dunque, adesso a parte gli scherzi, effettivamente, come dicevi prima, se c'è un luogo intricato è la Siria. Forse per comodità possiamo pensare all'Afghanistan. Nell'Ottocento si parlava del Great Game, ci sono dei libri bellissimi, Kipling fu coinvolto. Bene, oggi il Great Game si svolge in Siria. Perché in Siria? Perché la Siria è un luogo di transito, paradossalmente uno dei pochi stati non petroliferi della regione, ma è lo stato che collega tutti gli stati che lo circondano. È uno stato gestito da una minoranza, la famosa minoranza alawita, quindi legata al mondo sciita, e come tale è storicamente legato negli ultimi 50 anni, quindi Bashar al-Assad e precedentemente suo padre, all'Iran e a Hezbollah. Hezbollah, come sappiamo, è un movimento libanese acerrimo nemico di Israele, in quanto tale avversario di integralisti islamici, anche quello Hezbollah. Beh, allora, qui entri in un altro tema. Sono un partito che si chiama il Partito di Dio, chiaramente ha una vocazione. Poi sulla misura degli integralismi nel mondo islamico, naturalmente dobbiamo avere tante carte tornasole, ma quello che ha fatto impazzire completamente questo cocktail è che in questi ultimi 4 anni, da quando cioè la Siria si è trasformato, diciamo, da un regime controllato con un pugno di ferro a questo caos che viviamo oggi, è che i nemici e gli amici tradizionali si sono scambiati ruolo per comodità estrema. Se l'ISIS è arcinemico dei sauditi in terra saudita, è notoriamente invece sostenuto per interessi differenti in territorio siriano, perché lì diventa un'arma contro un regime alawita vicino all'Iran. Quindi, per estrema semplicità, se il nemico ce l'hai in casa è un conto, ma se lo scateni in qualche modo contro un tuo rivale, beh, è un nemico che viene gestito. È funzionale. Diciamo, cos'è iniziato? Ma a me piace ricordare che alla fine del 2010 eravamo qui a parlare della rivoluzione dei gelsomini, la ricordiamo? La Tunisia. Era un grande movimento di legittimo cambiamento. Le primavere arabe, no? La prima primavera araba nacque in realtà d'inverno, perché era appunto in Tunisia quando un ragazzo si diede fuoco per protesta. La Tunisia oggi paradossalmente è l'unico, uno dei pochissimi paesi dove il cambio è avvenuto. Successivamente fu l'Egitto in cui si chiedeva la deposizione del Rais. Il Rais fu deposto, fu condannato all'ergastolo, ma da chi? Da un governo che nel frattempo era diventato sotto controllo dei fratelli musulmani. E allora, un anno e mezzo più tardi, con il sostegno dell'Occidente, si preferì riportare un generale al suo posto, perché avere i fratelli musulmani al potere in Egitto rappresenta un elemento di instabilità per l'Occidente. E questi sono soltanto i due tasselli. Ora, la Libia, sappiamo che siamo ancora nel pieno caos post fine Gheddafi. Ecco, da questo punto di vista la Siria rappresenta un teatro in cui sono presenti tutti. Oggi dicevi dei bombardamenti, oggi è una giornata per certi versi memorabile nel dramma, perché oggi hanno bombardato i russi, gli Stati Uniti, i francesi e chissà chi altro, nel senso che naturalmente queste sono le posizioni ufficiali in un territorio che è lacerato tra interessi e eserciti diversi. Ed ecco diversi. Perché scappano, fuggono i siriani e poi naturalmente questa si riversano in Europa. Questa è l'unica certezza. Oggi quindi, quando 8 target russi definiti, il Pentagono stesso ha confermato che nel frattempo le sue operazioni andavano avanti nella zona di Aleppo, quindi più verso la Turchia, ma questa è la situazione. Tra l'altro, a proposito di botte e risposta, il ministro della difesa degli Stati Uniti Carter ha detto appunto che è un fisico, un professore dell'università di Harvard, per 25 anni ha lavorato proprio sull'intelligence contro i russi, dice sostanzialmente i russi stanno bersagliando zone diverse, lo dice in maniera ambigua, abbiamo l'audio, ma insomma credo per brevità non avremo tempo di sentirlo. Ma la risposta arriva telegrafica da Lavrov, che incontra il vicepresidente, il responsabile degli esteri degli Stati Uniti, e un attimo prima dell'incontro gli dice, forse questo lo possiamo sentire, il file numero 3, una battuta fulminea di Lavrov che dice questo. Interruzione del canale russo alle 20 del telegiornale, e fanno sentire questo Lavrov. passa dal russo all'inglese adesso. Ministro degli esteri russo, Lavrov. Don't believe the Pentagon when they talk about the Russian strike. Non credete al Pentagono quando parlano delle operazioni russe. A chi dobbiamo credere a questo punto? Per esempio c'è Gentiloni, ministro forse degli esteri italiano, che dice c'è uno spiraglio di una via d'uscita, e c'è anche il vicepresidente della Commissione Difesa del Senato, Sergio Divina, in Italia, che ha detto Putin ha ragione, da sempre sosteniamo che il terrorismo vada fermato prima che diventi un'emergenza interna, e dice il presidente russo ha affermato che l'unico modo giusto di lottare contro il terrorismo internazionale è agire in anticipo, combattere, distruggere i terroristi, e così sta facendo. Cioè, veramente non si capisce bene chi sostiene. Sicuramente c'è la speranza di molti in Europa che Putin trovi quella soluzione anche militare, che evidentemente in questi 3 anni e mezzo da quando è apparso l'ISIS, perché non dimentichiamo, non c'era, in qualche modo è nato in questa crisi, l'Occidente non è stato in grado di risolvere. Ma attenzione, anche la Russia è tutt'altro che infallibile, non dimentichiamo anche le sue esperienze col terrorismo islamico, insomma non sono necessariamente vincenti. Grazie Gino Donnelli. Ciao Gigi. A proposito poi di chi scappa dai propri paesi in difficoltà, in guerra, eccetera, di migranti, il ministro dell'Interno Angelino Alfano oggi, sentito dalla Commissione Schengen, ha detto l'Europa si sta finalmente muovendo nella direzione giusta sulla questione dei migranti, ma all'interno dell'Unione, ha detto, persistono posizioni egoistiche che guardano al problema in un'ottica esclusivamente nazionale. E oggi criticava insomma questi paesi egoisti proprio mentre accadeva al confine tra Italia e Francia, cioè a Ventimiglia, sapete, sugli scogli dove un centinaio di migranti è accampato da circa 100 giorni insieme a militanti dei centri sociali. Oggi all'alba è stato sgomberato con la forza questo accampamento a Ventimiglia, e si trovava nell'area della pineta di Balzi Rossi vicino alla scogliera. Il ministro dell'Interno Alfano ha commentato: abbiamo affermato in questo modo, mandandoli via, un principio di legalità. Poi si è creato un altro presidio, ma è intervenuto anche il vescovo di Ventimiglia. Ne parliamo con Andrea Di Blasio, direttore di Riviera 24. Buonasera Di Blasio. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, quindi adesso la situazione qual è? Voi avete assistito a veramente a tanti giorni, settimane, no, di questa situazione? Sì, assolutamente, dagli inizi l'11 di giugno con l'emergenza profughi a Ventimiglia, con i migranti che si erano accampati sui famosi scogli di Ponte San Ludovico, e poi oggi con l'epilogo, si può dire, perché da questa, nella mattinata di odierna alle 6:20 è iniziato il blitz delle forze dell'ordine, che ha cercato di spostare questa cinquantina di no borders e migranti dagli scogli al piazzale di Ponte San Ludovico, insomma. Ma poi soltanto la mediazione del vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo, Monsignor Suetta, ha portato a più miti consigli, e alle 18 di questa sera una fine di questa storia. Quindi non c'è più nessun presidio. Che tipo di mediazione effettiva si è trovata? Hanno promesso qualcosa questi migranti? Innanzitutto è stata una mediazione improntata sul dialogo, e ovviamente è stato promesso di non attaccare in un certo senso i no borders, nel senso voi andate via dagli scogli, in cambio c'è un'immunità, ecco, in un certo senso. Quindi e invece i migranti sono stati, invece qui quella decina di migranti presenti sono stati accompagnati al centro della Croce Rossa, che dove c'è la stazione ferroviaria di Ventimiglia. Farà il primo intervento, insomma, quindi speriamo che per loro ci sia un destino diverso e che non debbano più ricorrere sicuramente alla disperazione poi che li porta a resistere così tanto in queste situazioni. Sì, Andrea Di Blasio, direttore di Riviera 24, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro altrettanto. Grazie. Fino. C'è Dario Ricci, l'abbiamo, no, da Torino, no, è caduta la linea, forse si deve aggiornare probabilmente su un gol, molto facile che sia, della Juventus, vista la pressa che aveva, però dobbiamo finire adesso questa chiacchierata con Andrea Di Blasio. Ci prendiamo una pausa di riflessione, di creazione, come preferite, e poi ritorniamo sugli argomenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Il nostro primo ministro vive in un universo parallelo, se andasse nelle fabbriche si renderebbe conto di come la realtà sia ben diversa, scrive Mauro al 349-238-6666. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi anche continuano ad arrivare tra la pagina Facebook di Effetto Notte e quella per gli SMS che è il 349-238-6666 per l'appunto. E poi un altro messaggio: prima dell'avvento di Renzi il paese era sull'orlo del precipizio, ora abbiamo fatto un passo avanti. Ne parleremo tra pochissimo di queste dati che riguardano l'economia, però prima di tutto vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata. La riforma del Senato, scontro sulla modifica canguro che farebbe decadere gli altri emendamenti. Le opposizioni parlano di attacco alla democrazia. I dati Istat sul mercato del lavoro, ne parleremo tra pochissimo. Siria, abbiamo appena lungamente trattato, parte l'operazione russa con raid aerei, ma gli Stati Uniti chiedono di fermare i bombardamenti perché non colpiscono le postazioni ISIS. Ed è notizia di poco fa che l'opposizione siriana accusa i raid russi di colpire, di aver ucciso almeno 36 civili. L'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente palestinese Abu Mazen, dice basta accordi protettivi da Israele, ma il primo ministro israeliano Netanyahu replica il suo è un discorso ingannevole, Israele pronto a negoziati diretti. Ebola, un caso sospetto all'ospedale San Martino di Genova. Ennesimo femminicidio avvenuto ad Albano Laziale vicino Roma, un carabiniere aspetta l'ex moglie davanti alla scuola dove insegna e la uccide e poi si suicida. Per quanto riguarda la Champions, c'è il gol della Juventus a Torino su contro il Siviglia, gol di Morata. Capiamo invece se il governo Renzi ha fatto effettivamente gol nell'economia, soprattutto sui dati sull'occupazione. Ne parliamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao, buonasera. Dati Istat sono stati diffusi, quelli sull'occupazione. Cala ancora la disoccupazione, che scende sotto il 12%, quindi in 12 mesi si registrano 162.000 persone in meno nella ricerca del lavoro. Ad agosto più 69.000 posti di lavoro, ed erano praticamente 2 anni e mezzo che il tasso di disoccupazione rilevato dall'Istat non scendeva appunto sotto la soglia del 12%, però torna a salire di 0,3 punti la disoccupazione giovanile. Sentiamo Alberto, prima di commentare questi dati, cosa ha detto Renzi a proposito di essere fuori dalle sabbie mobili. Dalla produzione industriale al PIL agli occupati, che ancora oggi vedono con i nuovi dati Istat un ulteriore incremento di 69.000 unità che arrivano a 325.000 agosto 14 su agosto 15. Questa prima fase, quella di portare l'Italia fuori dalle sabbie mobili, è una fase che possiamo dire missione compiuta, che possiamo definire missione compiuta. Il passaggio successivo è quello di riuscire a definire e declinare i nuovi paradigmi dell'investimento manifatturiero in Italia. Quindi Alberto, missione compiuta? Beh, fuori dalle sabbie mobili forse si può dire effettivamente di sì. Si tratta di capire bene qual è la velocità di uscita, che ancora non è chiara. Il dato di oggi è indubbiamente un buon dato, perché scendere sotto la quota psicologica del 12% per la disoccupazione è importante. Arriviamo a un 19%, poco sotto, ma comunque abbiamo sforato il pavimento del 12%, e questo è importante. Ci sono due dati qualitativi dentro a questi numeri di oggi. Uno, che c'è un forte rilancio dell'occupazione, un forte abbattimento della disoccupazione femminile, perché è scesa in un anno di 7,3 punti, quindi è molto. Invece per gli uomini è meno della metà, e poi c'è un 1,6% di occupati in più tra le donne, quindi è un dato significativo, diciamo, nella distinzione del mercato del lavoro sul genere, e quindi questo è importante, così come è importante andare a vedere che tipo di contratti sono stati fatti. Soprattutto si tratta, questa volta si vede bene dalla rilevazione pubblicata oggi, che sono contratti a tempo determinato. Sono quasi 3 volte tanto rispetto agli occupati a tempo stabile, diciamo così. Quindi questo denuncia il fatto che la rilevazione di agosto è una rilevazione caratterizzata da forti elementi di stagionalità, probabilmente appunto la stagione turistica, che è propria di un'occupazione transeunte, ha inciso su questo tipo di performance, evidentemente, che comunque è positiva, non c'è dubbio. Però quindi è transeunte. Senti, invece, quindi dobbiamo vedere a ottobre, novembre, se questi dati si consolidano, quindi siamo ancora più o meno a questa situazione. Beh, direi di sì, è importante capire se c'è il consolidamento. Se ci fosse il consolidamento che sta aumentando l'occupazione femminile, finalmente l'Italia impara a valorizzare il miglior capitale umano che ha e che oggi non usa per niente, perché siamo a tassi di attività che sono di 15 punti inferiori alla media europea, per non parlare del mezzogiorno dove il tasso di attività è inferiore al 30%, beh, sarebbe un grosso passo avanti. Appunto, se uniamo questo tipo di indizio di oggi all'altro che è venuto fuori con i dati di luglio, che diceva che appunto nel mezzogiorno per la prima volta si è invertita la curva, per cui c'è qualche assunzione in più, allora effettivamente l'Italia è uscita dai guai e sta cominciando il percorso di risalita. Sentiamo anche brevemente il passaggio su Italia e la sanità. Nel 2002 erano 75 i miliardi di euro del Fondo Sanitario Nazionale. Nel 2013 erano 106, quest'anno sono 110, il prossimo anno saranno 111. Questo perché deve essere chiaro a chi sta qui e a chi sta fuori di qui che sulla sanità questo paese non sta tagliando. Poi possiamo discutere di come impiegare questi denari e possiamo fare sia le consultazioni web che ascoltare alcuni dei messaggi che arrivano dai medici. Ecco, questo ci ha tenuto a dire anche il Question Time di oggi, no, Renzi, a proposito, sai, delle polemiche sul fatto di levare alcuni esami ritenuti inutili. Questo del capitolo del controllo della spesa sanitaria è sempre il più caldo di tutti, anche se effettivamente il ministro con le regioni si era mosso per tempo, aveva concordato un piano di riduzione degli aumenti che arrivava intorno ai 4 miliardi più o meno. E all'interno di questo appunto ci sono però delle razionalizzazioni degli esami che hanno sempre un carattere molto popolare e quindi diventano immediatamente oggetto contundente per la polemica politica. Contundente. Grazie Alberto Rioli, buona continuazione. Grazie a voi. Ciao Alberto, viabilità. Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Andrea scrive al 349-238-6666, senza l'incremento dell'occupazione giovanile, l'aumento dell'occupazione è come vendere più auto usate anziché nuove. Poi Matteo, buonasera Roberta, Renzi e Renziani hanno scambiato la responsabilità per potere, tipico dei ragazzotti di paese, senza arte né parte, cui il prete affida le chiavi dell'oratorio. 33 anni non mi rappresentano neppure lontanamente. Buon lavoro, è reciproco, nel senso il buon lavoro. Adesso vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti, l'intervento, l'operazione di bombardamento della Russia in Siria, e c'è lo scontro con Washington che non appoggia la strategia russa, e c'è l'opposizione siriana che accusa Putin di fare vittime civili. E poi Renzi, abbiamo appena sentito, che dice che l'Italia è fuori dalle sabbie mobili, c'è la svolta sulla sanità e anche la disoccupazione scende sotto il 12%. Riforma del Senato, uno scontro sull'emendamento canguro, entra nel vivo la battaglia per votare la riforma. Poi sgomberati a Ventimiglia i migranti, intanto c'è stato un nuovo naufragio nell'isola greca di Lesbo. Funerali oggi di Ingrao, uno dei padri del PC e anche della Costituzione. Bella ciao e bandiere rosse per l'ultimo saluto. E poi Abu Mazen e Netanyahu, che a distanza nei loro discorsi dell'Assemblea Generale dell'ONU si attaccano vicendevolmente. La partita della Juventus in Champions, siamo sempre 1-0 contro il Siviglia. Europa 24 notte. Il marchio IGP potrebbe presto non essere più un'esclusiva dei prodotti agroalimentari. Il 6 ottobre l'Europarlamento infatti voterà una proposta per estendere la tutela delle produzioni locali anche a manifatture e artigianato. L'indicazione geografica protetta, che in Italia identifica e tutela prodotti come lo speck dell'Alto Adige o la cipolla di Tropea, presto potrebbe essere estendibile anche a prodotti non agricoli. Lo deciderà il prossimo 6 ottobre il Parlamento europeo, chiamato a votare questa proposta che già ha incassato l'approvazione della Commissione giuridica. L'intervento su questa materia interesserebbe produzioni come quelle di tessuti, vasellame, marmo e pietre preziose. Inutile dire che molte eccellenze italiane trarrebbero beneficio dall'indicazione geografica a tutela della loro produzione. Questo consentirebbe di mantenere chiaramente distinguibile la produzione locale, spesso più ridotta e costosa di quella della agguerrita concorrenza globale. Il consumatore avrebbe così maggiori garanzie sul fatto che, ad esempio, un marmo di Carrara o un vetro di Murano sia stato effettivamente lavorato dalle aziende del posto. Abbiamo discusso della proposta con uno dei suoi relatori, l'europarlamentare del gruppo socialista Nicola Danti. L'esperienza dei prodotti agricoli ci dice che ci sono aree dell'intero paese che sarebbero oggi probabilmente aree con maggiori difficoltà e che grazie all'individuazione delle denominazioni evitano che vi sia una contraffazione, che venga utilizzato e che venga valorizzato quel prodotto al massimo. Per l'Italia è particolarmente importante perché noi abbiamo produzioni tradizionali significative nel campo della ceramica, nel campo dell'artigianato artistico, che possono avere da questo punto di vista uno sviluppo e un incentivo ed essere tutelati soprattutto dalla contraffazione, perché uno dei fenomeni che oggi abbiamo è che si può utilizzare nomi tradizionali anche dell'artigianato italiano, dal marmo di Carrara al vetro di Murano, ad altre ceramiche di varie parti del nostro paese, possono essere utilizzati questi con prodotti che non hanno nulla a che fare con le realtà economiche a cui si riferisce il nome, ecco. E sulla necessità di porre delle denominazioni protette, il presidente del distretto Marmi e Pietre Valpolicella, Filiberto Semenzin. Noi non siamo stati coinvolti e questo mi dispiace un po', ma autonomamente le nostre imprese da questo punto di vista già nello scorso anno hanno portato avanti un percorso di identità e di certificazione della pietra naturale che viene estratta nella Lessinia di Verona, proprio perché qui c'è un prodotto di nicchia, un prodotto particolare. Quindi il bisogno di certificare un'eccellenza è più che mai necessario, diciamo, in un contesto di concorrenza globalizzata. È utile, importante e fondamentale, proprio per dare il giusto valore al lavoro che il territorio sta portando avanti e che le aziende del territorio portano avanti. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso colleghiamoci subito con Torino, dove c'è Dario Ricci che sta assistendo alla partita di Champions della Juventus e forse ci può dare buoni risultati, Dario? Sì, già da qualche minuto, che anzi già da un bel po' di minuti, che la Juventus è in vantaggio, perché al 41esimo, quando ancora ne mancavano 4 alla fine del primo tempo, adesso siamo al 53esimo, i bianconeri sono andati in vantaggio grazie al colpo di testa di Morata, un bel cross dalla destra di Barzagli e l'attaccante spagnolo, vero e proprio uomo di coppa di questa Juventus, che di testa ha battuto Rico. Juventus vicina al raddoppio anche pochi minuti fa, al 50esimo, con Dybala tu per tu col portiere del Siviglia, questa volta bravo a respingere la conclusione dell'attaccante ex del Palermo, la Juventus che sta meritando il vantaggio ma che ora si trova nella necessità di chiudere questa partita, visto che finora il Siviglia non si è mai reso troppo pericoloso dalle parti di Buffon. 54esimo di gioco, Roberta, Juventus 1, Siviglia 0 allo Juventus Stadium. Dario, scusa, non ti voglio distrarre dalla partita, però c'è un Piero da Torino che ti vuole provocare, dice: ah, hanno più punti in Champions che in campionato, che buffi gli strisciati, dice. Beh sì, ma insomma averne 6 in Champions in effetti vale sicuramente di più, visto che le partite sono di meno in questo girone, sono appena 6 partite, quindi avere eventualmente una doppia vittoria, averne solo 5 in campionato sicuramente è un problema, ma essendo quelle 38 giornate magari qualcosa si può recuperare. Tanto passo per passo, diciamo che la Juventus sta provando a mettere al sicuro la qualificazione, superamento del primo turno del girone, che è sempre complesso, e poi per il campionato insomma lascia l'amico Granata in queste domeniche prendersi le giuste e meritate soddisfazioni. Tra l'altro facciamo anche un omaggio al Torino, visto che il 17 ottobre, Roberta, verrà messa la prima pietra del nuovo Philadelphia. Questo è un grande regalo per tutta la città di Torino, ma per tutto lo sport italiano, perché il Philadelphia è sinonimo di grande Torino, è sinonimo della storia d'Italia. Grazie Dario Ricci, grazie da Torino. Grazie a voi. Ciao Dario. E adesso torniamo brevemente sulla cronaca, parliamo di tangenti dietro i lavori sulle strade della Toscana, 4 persone agli arresti domiciliari, compresi funzionari regionali dell'ANAS. Lui segnalava all'ANAS i lavori da fare e lui alla fine se li aggiudicava, perché la regola, Francesco Mele, la conosceva bene: pagare, proclama esplicitamente. Così negli anni questo imprenditore si è aggiudicato sfilze di appalti in Toscana grazie agli uomini giusti e ai vertici dell'ANAS regionale, grazie ad una percentuale del 5% sull'importo e grazie a sfilze di favori, dall'assunzione della moglie di un funzionario ai biglietti per il motomondiale, per non contare pranzi e cene. E c'è pure il passaggio sospetto di una busta, forse con contanti, nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari 4 persone. I soldi al tuo buon cuore, quantifica un funzionario ANAS, uno di quelli a cui Mele mandava le foto scattate a ponti distrutti, a strade dove era necessario intervenire dopo le frane, ricostruisce il procuratore Giuseppe Creazzo. L'imprenditore arrestato suggeriva egli stesso i lavori di manutenzione da fare sulla rete stradale, ci dava anche da fare per aiutare nella predisposizione dei capitolati. Perché alla fine i maggiori controlli, per dirla con gli indagati, hanno solo aumentato la corruzione. Se c'è il terzo, deve mangiare, ammette. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, visto che continuano i vostri messaggi su Renzi, siamo fuori dalle sabbie mobili, e dice questo ascoltatore: raccontiamoci pure tutte le favole che fanno piacere all'attuale ex sindaco di Firenze. I posti di lavoro sono finti e instabili. Non è che nelle varie riforme eroiche hanno anche messo gli algoritmi di calcolo dell'Istat, proprio gli algoritmi quelli che vengono in mente di Calderoli. Invece sulla pagina Facebook di Effettonote continuano i vostri messaggi sul ponte, sullo stretto. Vela dice: hanno già speso un sacco di soldi per lo studio e i progetti, direi che può bastare, così è un'opera troppo complicata e rischiosa. Raffaele: puntano di recuperare quelli del nuovo centrodestra uno 0,5% di voti, così possono arrivare allo 0,6%. Floriano dice: il ponte potrebbe anche servire, ma mancano le strade. Ci risentiamo alle 22.